libertà di idee sui segnaletti, che cosa? Uno che lo fa come mestiere, le segnaletiche se li ripassa man mano che va, che con il camion si vede i segnali, c'è questo, vuol dire questo, non ti è mai successo? Dice. Sì, guarda, vai in Corsica, sono diversi, Gianni. Se tu vai in Corsica è diverso. Secondo, io sono andato altre volte, non me ne ero reso conto. Però secondo le strade che fai, le zone che fai, i cartelli sono diversi completamente. In poche parole, i semafori, quando è giallo lampeggiando è come che ci sia il verde, hai capito? Quando lampeggia il giallo, lampeggia il semaforo, sta lampeggiando il giallo, è come che sia il verde, hai capito? E poi c'è il rosso. E quando, quando inizia il giallo fisso, è che sta per scattare il rosso, hai capito? Sino che lampeggia, sta tanto, lampeggia il giallo e verde, hai capito? Ma non dovrebbero essere mondiali i segnali. Io li ho visti in Inghilterra, segnali, li ho visti in Francia, e cose, sono tutti nati bruttissimi, è strano, allora con i cani si è arrivato a segnali che cambiano il tavolo. E faccia così, così era, così è in Corsica, ho già, è tranquillo, è così, io lo sapevo, ma è così, no, non si scatta il verde, no, è il giallo che lampeggia, hai capito? E quando sta lampeggia il giallo è il verde, capito? A me come me l'ha detto, per fortuna mi ha detto quelli che stanno andando, infatti così, visto gli altri, scattava il giallo lampeggiando e tutti passavano. E quando cominciavano ti scatta il giallo fisso, che fa giallo fisso e per scattare il rosso, e scatta il rosso, esce il rosso. Poi che esce il rosso parte il giallo al lampeggio, tan tan tan, lampeggia il giallo ed è verde. Il verde non c'è, il colore verde non c'è, capito già? Mi piacerà ancora, devo dirigere. Poi secondo come capita lo trovi anche il verde, però non devi stare attento, ma in Francia è diversa la questione, e in Corsica voglio dire. Perché poi mi è capitato che c'era un lavoro in corso e una cosa e l'altra, e Rosemattri scia Rubelli. Fazia Rurui e scia Rubelli, mi è capitato un lavoro in corso da parte, però tutta l'altra parte della Corsica, hai capito? Però di solito era il giallo, la peggiava il giallo, e tu boh. Ed è così, per fortuna me l'hanno detto, occhio che qua dice il verde non c'è, non esiste il verde qui, quando il giallo sta lampeggiando è il verde, quando vedi che sta iniziando il giallo fisso, allora è per scattare il rosso. Guarda un po'. Funziona, vedi? Purtroppo è così, lì funziona così e devi starci attento, hai capito? Devi starci attento perché io al primo semaforo meramente sono stato dentro un paesetto e cavolo, sono giallo lampeggiato, ho detto ma sta lampeggiando il giallo, vuol dire che secondo te quando lampeggia il giallo sta lampeggiando vuol dire che il semaforo è spento e sta andando così, ma ci visto le lampeggiate sono andato io, capito? E niente, poi ho visto qualcuno che era giallo fisso e invece stava scattando il rosso, non lo so. Comunque ho visto che stava lampeggiando e sono passato. Io oggi non per vantarmi, ma quando andavo a scuola guida ero quello che ne sapevo di più. A me quando non sapevo la cosa diceva, già vi dirò tu. E io tante volte ho chiesto quando vedo i segnali, me li ripassano per dire, mi ricordo proprio cosa voleva dire, il triangolo rovesciato, rallentare all'occorrenza fermarsi. Me l'ho fatto notare a un tipo che stava borbottando l'altro giorno che è passato e praticamente si stava prendendo anche la parte grande, che io gli devo dare la precedenza, non voglio vedere quel segnale, sa cosa vuol dire? Rallentare all'occorrenza a fermarsi, adesso l'occorrenza c'era perché stavo passando io, quindi si doveva fermare, ma io non l'avevo visto, ma io non ne ho da fare, se non ci vedo si mette gli occhiali, me ne sono già andato. Brecco, tu lo sai una cosa, no? Non so se hai notato una cosa, brecco, pare che l'hanno tolto. Scendendo a Porto Torres, la peggia giallo, no? La peggiante, non sta funzionando. Tu hai visto che c'era il cartello, il triangolo che diceva a semaforo spento dare la precedenza a destra? L'hai notato tu? E sulla 131 c'è da Porto Torres, l'hai notato quello? No, mai. Come mai, la verità. Cioè, devi dare la precedenza alle macchine che provengono dagli uni, da... ecco. Quindi ho detto, guarda, attenzione ragazzi, attenzione, ho detto a molta gente, attenzione, che qui c'è un cartello, e questo triangolo vuol dire questo, in caso di semaforo, dare c'è il triangolo, e sotto c'è scritto, in caso di semaforo spento, cosa vuol dire? Che devi dare la precedenza a destra. E allora, quelli che escono dalle bisogne, sì, hanno la precedenza rispetto a quelli che stanno andando verso, scendendo da testa verso Porto Torres, devono dare loro la precedenza, se attraversano, a quelli che escono, che salgono da Porto Torres, perché sono alla sua destra. Capito? Gli ho detto a tanti, gli ho detto a Baracchino, attenzione, che qua adesso mi sembra che l'hanno tolto il cartello già, l'hanno tolto, perché ha detto questo cartello hanno la precedenza, anche quelli che uscivano dalla Grindi, è la stessa cosa, perché tu salendo c'era semaforo spento dare la precedenza, rispettare le precedenze, capito? E se ti mettono un triangolo, rispettare la precedenza a destra, a semaforo spento, il semaforo è spento, sta lampeggiando, è come che sia spento, giusto? E allora tu in quel caso lì, se uno riusciva... Brecco. Allora, registrato il brecco, secondo so. Praticamente G è sbagliato, secondo me, non l'ho mai notato, dico la verità, ho visto molti incidenti lì, oltretutto. Ma è sbagliato, perché chi scende da Sassari ha già una certa velocità e cose, non può stare a frenare come è che la macchina che si chiude da lì, capito? È una cosa un po' errata quella lì, secondo me. O ci vuole il semaforo lì e lo devono ripristinare come la prima, oppure la precedenza dovrebbe andare alla chiesa da Sassari. Avanti Brecco. Ciao a tutti, sono Silvio. Sei? Silvio, mi sentite bene? Basso, avete moduli? Da dove sta parlando? Da Porto Torres. Sei molto basso, va. Vabbè, se vuoi intervenire rispetto a questo discorso che stiamo facendo, visto che tu sei da Porto Torres. Mi ho sentito bene, mi senti? Non è da Porto Torres, che io non intendo. Allora non è da Porto Torres, perché tu avresti sentito meglio di me, io che lo sento. Sono Porto Torres basso, chi è che ha detto che non sono di Porto Torres? Porto Torres basso in che zona? Zona Fasani. Zona? In che zona sei di Porto Torres? Zona Fasani. Balai? Caragara, tu è molto basso, ti ascolto, non ti ho mai sentito, che nominativo c'hai? Silvio. Perché io da via Balai ne conosco uno, ma non sei tu. Cappa, sono in compagnia di Gigi Vulcano, che ha detto che non ti ascolta, e poi non so chi ci sia di altro, se c'è qualcuno all'ascolto, niente, non so come mi ascolti tu, ma io ti ascolto bassissimo. Tu come ti chiami? Io ho doppio room da Sassari. Copiato. Cosa? Ho capito. Che cosa ho copiato? Quello che ti ho detto. Cosa hai detto? Ho detto doppio room da Sassari. Ma doppio room quello che si chiama così? Cappa. Più fane, no? Sì. Se tu sai che io lavoro alla Sisa, dovrei conoscerti, chi sei? Sisa Fassana? Non ho copiato, non riesco a copiarti bene. È molto QRM, hai capito? È difficile copiarti. Facciamo come la Gigi riprima. Senti, però io non lo sento per niente, no, proprio zero completamente. Non so se lui mi ascolta, però io zero completamente qua. Gigi Vulcano? Appa, questo qui non sai chi è? Questo è Antonio Grotte, che sta rompendo. Grotte, mamma mia, ma digli a buttarci, se a Balai, di buttarcelo direttamente a mare quel baracchino, capito? Di buttarcelo direttamente a mare. Mi piacerebbe, così va a recuperarselo. Ui, Grotte. Allora, la portenza che non ti sentiamo così. Quando mi imparo mi perdo. Ma io ti ho fatto andare così, ti avevo riconosciuto dall'inizio io. Dirà. Buonasera a tutti. Massimiliano c'è già. Ma è cattivo, me lo diciamo all'ascolto. Ciao. Ciao, tranquilla, stavo cercando. Buonasera a tutti, canale, questo canale 10. Buonasera a tutti. E rimane un po' di chissà dopo. Ciao a tutti. Ciao Cla, ciao. Ciao, ciao a tutti. Hai capito che giochi ti fa, bro? Che divertimento. Se tengo che giochi in fase, io per me non esiste perché non lo sento. Io lo sentivo per dal corrente, comunque dal modo di parlare, me ne sono accorto che era io pensavo, vabbè tu non lo sentivo. No, non lo sentivo. Io lo sentivo, pio pio. Come il pulcino. C'è che si accontenta di giocare in musica. Cappa cappa. Antonio, Antonio, aiuto, mica sei manno. Come il pulcino pio. Io non più l'ho sentito adesso. Oh, faccio un attimino di bianco, già, un attimino di bianco, un attimino. Ehi, vabbè, vediamo un pochettino. Giulio, hai finito di aggiustare questo apparecchio? Sì, adesso sto controllando un'altra cosa, in un altro apparecchio. Anzi, in un alimentatore. Vediamo un po' se riesco a recuperarlo. Ma non ti dimenticare le pinze dentro. Stasera si vuole proprio assillare, radio compreso, si vuole rilassare giù. Beh, sto passando il tempo lo stesso, ascoltandovi e allo stesso tempo lavorando. No, ho un alimentatore qua che non mi accendeva la lucetta, no? E adesso la sto. Oggi mi sono dedicato alle lampadine. Attento Archimede! Gianni, avanti, capaccio, Franco. Ascolta, ma sai quanto sono quei radiali? Cosa? Quei radiali quanto sono? Eh? 1,62, preciso. Quello in resina. Cappa, ti ringrazio. Comunque io sono andato da qui come stamattina, ne avevano 4 e me ne mancava uno, altro che li devono arrivare. Mi ha girato tutta la cassa di da bricco, eccetera, eccetera, non ne hanno. Guarda quello che c'è, dove c'è il legno, lì ci sono, li ho visti. Ma 5 me ne servono a me, capito? Ah, cazzo. Ehi, va bene, dai, mi sono entrato per dirti questo, se me l'avevo segnato, se l'altra sera ho sceso uno e l'ho misurato. Preciso, preciso, 1,62, e ho preso un gommino, Ti ringrazio, va. Siamo 1,60, poi il gommino siamo 1,62, là. Vabbè, ti ringrazio, Fra. Comunque, se vuoi stare, siamo qua tutti quanti riuniti. Se ti può interessare il discorso. Ehi, cappa, no, mi stavo ascoltando, siccome sto parlando in verticale con un amico qua, quel ricchio che rimane, sto parlando in verticale. Magari, guarda, mi sto ascoltando, dai, ci sentiamo dopo. Caragaba, va bene, buon corriccio allora. Avanti, Oggi. Esci. Beh, senti voci, senti. Eia! Eia! Comunque io lo sentivo pio pio. Ehi, l'ha fatta apposta, no? Per non farsi riconoscere. Si abbassa la potenza, al minimo. E fa questi giochetti qua, capito? Fa questi giochetti, però già è andata male perché Portottore se Gigi è più vicino e noi lo sentivamo e Gigi no, quindi già non era Portottore, se già avrebbe che è andata male. Poi era in mezzo al QRM, si capiva male, però qualche parola l'ho percepita e ho capito subito che era lui. Cavagara, andate, riprendi Grodino. Attenzione Grote! Sta giocando, la c'è a giocare, va. Cappa cappa. Cosa ti stavo dicendo, grazie. Questa sera di Polotto ormai tu Gigi non l'avevo mai lottata, lo sai. Questa storia che mi ha detto Gigi, siccome a Portottore già l'entrata di fronte alla guida del suo semaforo, c'è sempre la semaforo lampeggiante adesso. E Gigi mi stava facendo notare che c'è un segnale che dare precedenza, praticamente chi scende la sassa gli deve dalla precetta a quelli che escono dalla parte dei divisori. Che bella precetta lì è la dividere per forza, a meno che non ci sia il semaforo che funziona, ma però se lampeggia e da lì tu la precetta la dividere sopra la triccia. Hai capito? Dunque sei obbligato a tagliare, sei già mezzo fuori. Sì, e vedi che femmine io sono così prebassato. No, non è come dici tu, grazie. C'è anche il fatto che una è strada statale e l'altra è strada comunale. E quindi la precedenza c'ha sempre la strada statale, ricordati. Sì, rallento anche un po' di volte mi sono scappati di macchine, cini, a bussa. A rallentare rallento, sono più attento, capito? Però se vedo che fermo, passo, rallento però. Beh, quello tutti gli incroci si fa. Si dovrebbe almeno fare, non tutti lo fanno, ma rallentare gli incroci anche se c'è precedenza, io lo faccio sempre. Lo faccio sempre perché c'è sempre lo sprovveduto che ho distratto, che passa dritto e dopo succede le patatracche, dopo sono più le rogne che altro. E a parte lo sprovveduto ti può capitare pure che magari chi tu ad aprina non riprende la macchina e ti la gatta in mezzo. Cazzo, cosa fai? No, io ho sempre rallentato l'incrocio anche se ho la precedenza. Mi piace sempre più sicuro che non giuvisco un bel incidente così, da poi a farassini non mi ha frenato la macchina. Allora io sempre rallento, precedenza o non precedenza. Vabbè, rallentare sì, rallentare che si può fare, perché rallentare e controllare a destra e a sinistra, sempre io lo faccio. Quella è una mia abitudine e più volte pure, quando arrivo all'incrociare una volta, per due o tre volte io guardo la parte all'altra, perché ti può capitare se vedi due in moto che camminano davanti a un marco e lo vedi. Ehi, come la capito? Sì, ci danno. Oh, io mi gioco fermo. Però era un bel lontano, si può dire, era quasi a legno lui. E io mi giuro prima. Ma che ci trovo a seguire, arrivo quasi a entrare, c'è la rotatoria e intendo BOOM! E io ti vengo la moto, stretta allo sportello e ti ho curato dalla sabbaccia della macchina, ma brincato proprio. Avvio. Come hai fatto, grazie? Avvio. La sua cosa che fa, ti rubo la buona anima di papà e fa guida l'assicurazione. Mi sono curato dalla sabbaccia che ho sportello della guida, non apriva più un 127 ci ha perso tre porte. Si riparava, andava a vedere, a cui il nido, mi riparevo, buco, a vedere, cazzo di lì, cazzo per due coglioni, si ne è pisato la terra, si era pure niente, e le parata un fumo, e allora ho chiamato l'ambulanza, però la colpa era la sua, non era mia, io ero quasi dentro la rotatura, questi cazzo con lo sportello quasi al centro, là, tra... a metà macchina appunto, mi ha rovinato che sullo sportello e mi ha circolato un po' con la biancata. Cazzo! E gliel'ho fatta che babbo mi ha assillato l'usalbito, perché stavo salendo all'ospedale, c'era mia madre che l'aveva operata e si sentiva male. E allora mi ha giubata, però sono andato subito all'ospedale, capito? E lì siamo buttati in ambulanza, sono andato a Natallo, l'indomani, tutti ingessati lì, là il capitano, si pariva un aereo lì, da un raso, la gente giù, boom, e chi ti pure, cazzo cose, mi dico, e poi la moto, con un marubio, tutta crashata lo sportello, e la colpa era sua, non era colpa mia. E mi ha giubato a Mappiandella, la signora della chiesa, sono andato a vederlo, si era detto ingessato, pure un collarino va via, con i contrappesi. E la giudice ha rubato, vabbè, io gli ho fatto l'assicurazione, per, ma che sa, di tutta la volta di essere sciarmentato. Però le ricordo questo, che la compagna di suo figlio mi compra almeno uno sportello usato, ma che la vacca noi era dritto, funzionava lo sportello dritto, era per la via dei sali questa macchina, la volta. Ma di tutti i giorni mi occupava tutta. Ed era abiti un giovane. Ehi, un ragazzo, la ciò che è andato da Roma, ma non è bello lo sportello, no, non me lo compra, cazzarmelo lo sportello, gli ho fatto l'assicurazione, ma che l'assicurazione mi ha detto che le è cucciato un bel di nacque l'incidente. E che c'è la cosa poliglica, non ne ho mai fatti di denuncia, è capitato purtroppo. Io l'unica denuncia che ho fatto da quando ho quell'assicurazione, sono una vita che c'è assicurazione, è solo quella denuncia lì avevo fatto. E buh, mai più, a Giuseppe Bavardo regolare. E cazzo che cosa vuole da me? E cazzo a chi non so occupare? E mi era anche aumentata l'assicurazione. Ma se tu hai messo come era successo l'incidente, grazie a me, avete fatto uccidere. Però io la macchina me l'ho messa più al centro, capito? Appena spuntando, là, ho fatto il disegno, no? Non è che la giubbuccia quasi alla fine, no? Ero quasi entrando dentro la rotatoria, e lui è che ha visto un'altra macchina dietro di me. Allora cosa ha cercato di fare? Di frenare, però mullava e camminava, ha tenuto, invece di andarsene sulla destra, dietro di Gitto, che era attaccata alla mia, è andato verso la sinistra, feci tu, in nata lui ha giretto praticamente, all'inizio del giardinetto, e feci tu in nata a me. L'ultima che c'è? Adesso fai da qua la pretella della chiesa di Santa Maria di Pisa e scendi che a Ucci, cosa c'è di fronte? La rotatoria che c'è qui, che giri per andare a Viale Porto Torres o verso Città Mercato, quella rotatoria per andare a legno, quella. Capito. Ma pensavo quella della Budimidio. Vabbè, lì ne succedono un bel incidente lo stesso, vabbè, l'hanno aggiustata da poco, di nuovo tutte fasciate. Le rotatorie come sono scorrevoli, sono anche pericolose però. Ma la colpa era la Giulia, se sei entrato dentro la rotatoria, all'inizio proprio come fai la curva, no, dalla rotatoria, lui è passato sopra, capito? Non è riuscito a bloccarla la moto, capito? E se ci dinanzi a me, lui stava tirandolo per andare a sinistra, che a destra non ve la faceva più, invece frenava e la moto camminava a Roma stessi, capito? Perché le facce erano ben veloci, quando l'ho visto io che l'ho fermo, era rivenne il legno, l'ho visto col paracetto, ma il segno è lontano, dentro la marcia. Chi era preso a me, Roma stessi, arriva chi va in mente, buh, e chi fu pure. Non parla subito da maravigliare. Se mi scuro che cazzo sotto, non sappia cosa cazzo era. Poi ho visto con lui, con la cosa del lucchio, questa cosa volare dall'altra parte. Cazzo, se era il suo manco. E la colpa era sua, non era colpa mia. A chi mi era bruciato anche da reddito, che cazzo mi l'ha detto? Ah, rubava, che da poi ci trovavi. Vabbè, grazie, non ti lascio a raccontare le cose. ma da un bel questa storia qua. Già è una di... Ma appena fatta quella rotatoria, appena fatta la... Che le dire sono successi? Ne ho visto anche io incidenti brutti, anche uno in moto. Per due volte l'ho visto in moto, uno più avanti per girare la città, ma anche per quella che stai dicendo tu. Guarda che io ho visto un incidente di un camion nella discesa di Bonorva, di lì, e quasi finita era la discesa, dopo la fontanella, c'è una fontanella sulla sinistra, salendo ti viene a destra, c'è un piazzale grande, no? e prendeva. Però rientrando a Sassari, io ho visto questo camion che mi aveva sorpassato nell'Oristanese, a razzo. Beh, adesso ho visto un camion, il cutarmuri, e mezzo busto, il busto, in terra, e là che entrare un camion, sotto a Rosedile, in classe di Romanubio. Chi dice, deve essere facciato un camion, non già risolvo. Si è girato e si è incontrato proprio a Rumuga, la montagna. Cazzo l'ha troncato di netto, si è sbalzato dal parabrezza. E si era in terra senza le gambe. Gianni. Per carità. Ha buttato in bruttura. Ma è morto? Gianni. E allora, se ci sono così gente che l'ha chiesto lì, il cenere con le gambe era sul sedile, seduto incrassato nel manubrio, sotto la pedaletta. E il busto, dalla pancia in su, era in mezzo alla strada. No, io pensavo solo le gambe. Quando ti si tagliano le gambe, poi vive lo stesso, quindi potrebbe essere anche... Se c'è qualcuno subito che ti blocca il sangue, ma con le cuscine, lo credo che non c'è bovaracci. Probabilmente non le ha risposto il camion, non ha frenato. E ti stanno chiamando già. E ti stanno chiamando già. Ma qua c'è il casino, stanno bisticciando, ma non è la Lomarco, non si capisce nulla, che la fai andare avanti, dai. Avanti, chi chiama? Avanti! Italia, Nord Sardegna risponde, avanti. Gianni, Gianni, Gianni. Quello dovrebbe essere, arrivo facendo lo scherzetto. Chi è avanti? Fausto, sono Fausto. Non sento nessuno io là. Sento un bisbiglio, ma non si capisce nulla. Avanti, chi è rimasto? Giulio. Fausto morto già, quello cosa fa? Dai, sto sistemando tutto, il tavolino qua, ho smontato tutto. Accendino, sì. Claudio, lo riprende. E questo ti chiama, ciao Giulio, buonasera. No, no, cioè io mi sto ascoltando, sono da fratto anch'io, un colpo qui, un colpo là, ascoltando. E mi chiama, ma non capisco che cosa dice, sento dei bisbigli qua, non si capisce cosa dice, capito? Ma probabilmente è quello di poco fa che sta facendo qualche scherzo, però non riesco a capire niente di quello che dice, quindi non posso neanche dire se è lui o no. Ciao, sono Malacca. Ciao, qua, ciao, ti saluto adesso che c'è Bianco, ciao. Fai Giulio, fai. Giulio, buttaci tutto. E occhio che ce l'hai. Apri la presa che sono lì. E lo proprio, guarda, tutto ripristinato qua, tutto a posto. Ma laggiù, chi non è andata là? Quando ci vediamo ti do un barattino, Giulio. Bene così, io. Capito, mi hai giù. No, qua, intanto non la farà dietro, ecco, i consigli sono quelli già. Non la farà dietro, gli figosi, spari su, è facile a dirla quasi tutto. Quando ci vediamo ti do un barattino, se ti piaceva. Ah, ehi, quando ci vediamo, qua, non ho problemi. Dimmelo quando vuoi, io già lo sai, ormai è tempo ne ho quanto ne voglio. Dunque, vedi tu quando sei libero. Ehi, ehi, ehi, ehi, e ti chiamo in settimana. Va bene, qua, d'accordo. Ciao, ti devo rompare. Parla facile il regalo. Giulio, ma se non lo vuoi, lo dai a me. Quando decido di buttarli via, come hai detto tu, allora te li do. Ehi, porta anche il carrello, bene va. E perché no? Se vuoi te ne faccio uno nuovo, intanto l'attrezzatura ce l'ho, la bottega ce l'ho sempre, dunque, se vuoi te ne faccio anche uno nuovo di tavolino. Ehi, bello lo voglio. I fiori di bosso, bosso, burro di fiori. Ehi, tranquillo, grazie, non è vale cosa avrei a Giulio, te lo posso garantire. Sto cercando quel pezzo di legno, dice che fa dicendo la verità. Aldo l'aveva trovato qui, quel legno parlante. E Aldo è un capo di lavandino, cosa mi sa dire? Ma per carità, è meglio non nominarlo mai. Abbiamo fatto a Pilucca e fare gli averia. E poi quello è qua, lui, tutta la vita. E se non era vero quando arbitrava, e poi che era vero un capo, mamma mia. La riga del città ci ha ciumato dal capo. Così l'ho perso il tempo. E un altro volo chissà, lui, per carità. Chi lo fa morire, cazzo che dici, così me lo perdo il tempo, cazzo che dici, pare mi voglia fa vita. Gianni! La carità, ora voi stavate chiamando, ah, pure da poco mi avete chiamato, voglia fare una ianna in chi vi viene Petronica, dove è l'inquilino, no? Fatto non le faccio, no, non ho tempo, gli ho detto. Gianni! Fatelo cocca a fianco. L'altro giorno l'ho visto di sfuggita. Gianni! La moglie però era venuta da me. Si trovava in barba a ringa la barica. C'è che la sua rivenna e questa significa. E non è che non ha le possibilità, no, ma è una randaggia. Gianni! Quello è l'abbigliamento anni 30, la sua era Muccioli. Gianni! Ma cosa fa? Come si era fatto bello anda a pigliarsi gli abiti? Si mette i vestiti di 70-80 anni fa, mamma mia, è pure fea poi come li indossa. Gianni! Una rima ha detto, alle poi un paio di scarpe, grazie, però c'è la moglie, e me ne faccio per cazzo su gli attrappi, vedi, lasci per... Ma cari dai, trago a capirlo, pucci! Ma vi credi niente che si battalone blu che va? E di quando sei qui vado? No, di quando sei crismato quella lì? Quella lì l'ha giudito, era l'altra cara l'ha giudito. Quando che c'è il pantalone scucito si vede un filo bianco lungo. Se io mi vado, buono non ci sei a farti i fatti tuoi. A che l'hai offeso, ma è furta. Ah, e li botti buccati burro, va via, si boccassi in appunta niente, va via semplicissimi. Ehi, lo so, qui, ora questa bella giuvizia io li botti infondati, va via. È andato a un cazzolaggio, è andato, che si è entrato, una brindusta si è entrata in un coso della volta, no? Perché c'è un cazzolaggio per la bottiglia, nell'angolo di via Nulla. Si deve entrare, dai fa via truzza. E si vede che li dovrà rubare, già non si è filmato, Luca Solaggio si è filmato in Chivi. Non è che l'ha detto, beh, ai fetti mi faccia le risuole lì, nuda. No, vediamo se ne è andato. Meno male, la giovincia era sempre con chi si batte a si botti. Una lì in macchina, in un violino, le si è classata la volta, era un freno. Si è entrato un banale, dritto la volta. E ci la fa andare in cuccia. Abituato a fare così, se no ti danno le buone rimonia, hai compreso con te base. E allora, Gianni, non ci sei. Mi cucinava un attimino, grazie, continui no, che devo dire prima. Eia! Grazie, sì. Graziano? Sì, Giulio, buono, lo capisci? Chi è? Anni sono. Mi sono lasciato un attimo per andare in bagno e non ci siete più. No, se questo è un ridente, non so che si è mai inteso con Giulio. No, non ti ho già inteso a chi si è andato nella sua bagno, non che si vengono più vicini. Cosa stavate... perché stavate ridendo? Un mio ex principale, come dirà. Una volta era nata la cara, io ho mantenuto la cara che era burbassai da fiaga cosa doveva fare, no, a chi non mi credeva che l'ha giudito io. Che avevo visto, praticamente avevo visto tutto tra un gaccioletto, a parte la polizia, che era detto faccia, ha detto Torugelo. E vedo, ma mi sei lo scemo, me l'ha fatto fare a santo detto. E l'ha fatto grande la zona, ma guarda che c'ha un bianco, il pantalone scucito. Sì, la sai cosa che mi fa? Ma non ci sei a parte. Attenzione, brecco, brecco. Avanti. Vai. Ehi, perché sto facendo così basso? Che sono basso. Vabbè. Contento tu, contento di tutti. Stiamo facendo fatica a tirarti fuori, alza. Cosa? È il massimo che posso dare. Ma non dire fesserie. Pantera, non l'hai piazzata ancora. Oh, la guarda un po' adesso. Per il radio c'è sempre basso. Ma la terra non è piazzata ancora. Aspetta un attimo, guarda adesso. Ah, c'è il basso del radio. Il segnale non, ma del radio c'è il basso. Guarda un po'. Aspetta, come lo senti, diglielo tu. Pio, Pio, cosa hai combinato? Ma ci hai fasciato tutto. Bravo, ti sento basso basso. Ma non è che stai uscendo senza antenna? Eia. Ah, tu, come sto uscendo io di radio? Bellissimo. Questo è il Midland, l'Alan 48, con quel microfono che ho fatto. Bene, aspetta un attimo. Allora, e Giulia che punto è? Giulia sta ordinando il tavolino, sta mettendo tutto a posto, quasi finito. E una contenne, pure una sciuffata. Si metti va via, rivolte buccate. Claudio. Una che si è riparata al violino, come ti ha frenato, è rimasta una volta attaccata allo freno, ne ha fatto a una volta su. Ma che cazzo mi sei paravisti? Guarda un po' adesso, ola ola. Cioè, non molto di farmi nel senso di naviare di là che non se lo può permettere. Sai che non spendemi, non ne ha tutti nulla, se battano mi la cazzo del coiuvato. Di chi si trasaldati, uno non è chi vale di là, che ci sono anche quelli che sono trasaldati anche se hanno i soldi, escono tutti trazzati e da poi vanno lì di là in busciacca. Guarda Gianni, bassissimo, sì, basso basso basso basso basso, ola ola, è amplificato, controlla la batteria, è basso bene. Ma, ed è così, già, già, e la moglie di pari, Mary Buffy, vissuta, con questa roba avete Mary Buffy. Ah, si vesti come c'è la signorina, là. Mary Buffy, cioè quel film di Mary Buffy, dello spazzacamino. Ah, giù compreso, pari, Mary Buffy. Presente ce l'hai, il cappellino e il sabbigliamento lungo questa terra. Ehi, già ce l'ho presente, sì. Io però avevo capito, mia nipote, detto in sassarese, cioè mia nibuddi. Ha già detto, Mary Puppi, chi sa lì ha fatto quei film tanti anni fa in busca, putrefatta, è sparita. E Mary Puppins. Usa bestiari così, da roba antica, dell'anno 30. Più mala vita, lo dici. E per dire solo di cazzo di verano. Mi la chiamo un paio di mesi fa, ci stava... Sembrava a farci roba. Vabbè. Non è ancora giambato. Ma io conosco, ci sono i ministri che sono vestiti la mattina, li trovi la sera facendo la spesa, sempre con la tutela delle turbine. Tra l'altro mi Giulio già lo conosce, quando è tra Giulio, chiede a Giulio. E capito, c'è gente trasandata, non si lava nemmeno quando c'è da travagliare, niente, proprio come te, come ti si acciappa, esci. Oh, se non era tutti nuda, ma se ti vedi manco magnasso. Perché è gente così, un po' fatta e lasciata noi dimmo, no? Secchi, secchi, la giù pure tanto è inutile che lei risparmi, mi risparmia su questo, risparmia su questo. Senti di quando crepa lì, si vedrata, le abbassa e con piedi anni del ridi. Tu li lascia tutti all'altro. Se sai quante volte gliel'ho detto, a tutti e due, a mare del muri di nei migliori pari di Napoli, l'eredità. La cosa che odio di più è quella, l'eredità di una famiglia che fa bisticciare tutti. No, la suddivisione l'ha già fatta, io già l'ho visto, ha già diviso e tutto quanto, però pensa che i campani edi sono padroni edi, ha già diviso tutto il bene che c'hanno, va tre figli, di maschio non avremo, però si deccano in Roma stessi. E non conviene avvenuta e via, grazie. Tanto che dove che cosa, tutti i cazzi si affata lì, io voglio quello, no, lo voglio io, con rispetto a me, perché? Perché sei figlio come gli altri. Vabbè, dai. Lasciamo perdere, io, guarda, adesso qualche cosa, in casa erano tutti girusi, tutti girusi. Già l'ho visto io da chi sia, cazzo che tu, l'altro aveva ragione, anche l'altro fratello più minore, travagliava puntuale, si faceva pure un culo, aggiutava pure a noi a caricare, andare, piazzare, fare, tutto ciò che faceva io per dire, lo faceva pure un figlio, si impegnava proprio, ma l'altro... l'aveva ruggiato in pancia, era in china, ora dimmi padre, mi va a bella la mano, grazie, ma la raccoglie, cazzo che cosa va ruggiato in pancia, di cinesi, di cose, di Sollevata, ha fatto il tetto, tutto imberlinato, travi nuovi, tutto lungo, il tetto sollevato, i terrazzi a bocca di lupo, con le tende, vetrate scorribili, e sono tutti affittati a 800 euro. Ha provveduto all'avvenire suo e dei suoi figli. La puzza, puttana un allacco. Beh, se no non si fa, deve dire così, a fiuti. Dai, che onestamente non te ne fai, Susi, è la rabbia. Io quando lavoravo a conto mio, ed ero onesto, ero un muso di fame. Oggi guadagnavo, domani ho sribuli in attargamio. O devi pagare niente, o devi pagare niente, e non ha mai fatto nulla, candela conto mio. Beh, lo so. Ma tu cosa c'hai, tre assi? Un man turbo buzzing, tre assi. Cappa. Lei vuole mantenuto, caso ti si cuppeggia la gomma, già qui c'è un bel idea. L'antico, c'aveva il motore traversale come il vecchio tram, non so se te le ricordi. Quelli verdi, l'OM verdi, quelli che i primi tram. I primi tram che c'erano, ho registrato il break. Te li ricordi quelli vecchi, antichi? Io li ho conosciuti quando ero minore due, perché abitavo in via Roma. Capite, si fermavano dove c'è adesso cosa c'è lì? L'ex Fiat a tanti anni fa c'era quando ero piccolino io, adesso lì vedo l'Uffizi, più avanti del catastro. Ne ho capito quali sono, quelli che avevano il motore dentro, gli OM verdi, che erano verdi di colore. Ma il mio era un camion tedesco, era un MAN Turbo o Buzing. Avanti il break. Buonasera Graziano, buonasera Dani. E forse la verba magnete già, Graziano. I femmini, ti rimaniamo a tirare i femmini, paghiscio la tua mai di là. Sì, grazie. E allora andavo alle strippittisse. Ecco perché non riuscito mai a combinare niente. Con le donne magari, già si sapeva fare, i soldi sono andati a finire così. Dì la verità, dai, a chi assolviamo, grazie, dai, dì la verità. Maria. Ma tu da giovane a Graziano lo conoscevi, da giovane giovane. No, da giovane, no. Ma può darsi pure magari, però non è che lo conosco adesso, capito? È da parecchio che lo conosco, capito? Però è un don Giovanni, non stavo a guardare così, no. Già sei sciocchittata, vedi? Io lo conosco a Gian Maria, da Randuero, un pizzinotto che passava con un pipistrello in moto. Cazzo, con un barubi a far palla, che motto era chi senti di la rifurata? Prima avevo l'olmo con 50 e lo stornello della Guzzi, era quello che me l'hanno fregato, chiede, e così a tre ne ho avuto molto, ho avuto il 50, il 125 della Guzzi e i Kawasaki 600. Giovanni! Ero, buonasera! Immaginate, la verità adesso ne sta uscendo a Graziano, che non ho riuscito mai niente. Per forza! Metti la piombo tu adesso! Sì, siccome l'ho sentito da camera a letto, che stava dicendo, mi sta dicendo, si strippitì, e avendo pure usato il strippitì a Edo. Brava Lu, mette la piombo, davvero si avvisava, più tardi, voi voglio vedere a più tardi, davvero, ripigliatela Lu. Ehi, ciao Gianni, Giomari, cazzo che non ci conosci due, ma via che su cappotto logo che pari a Zimiano. Oh, yeah. bizzitta, via. Già è un bravo bizzito, dai, Graziano. Era sempre competente per i temi poco fa, non so se l'hai inteso. Chi va un fiori come ti vemmi, ha detto. Così è. bravo Bizzino, dai. Già è bravo Graziano. Tratta Rumè che già è bravo. Avanti Graziano. Vedi il gioco di Findelli, da me a fine mesi faccio abitare a Meridina. Luca ha fatto che disieda, era rulote, sicuramente. Ma c'era stato di essere il principale doio. L'Utrecci va via allora, tu vai via l'Utrecci allora, da giù va via l'Utrecci. Oh, si usavano quando mi ha conosciuto il Loden, quei cappotti lunghi, verdi e blu scuro erano. E allora la moda era con i belli tirati in da rete, la cosa longa longa, anche io mi la via lunghi, mi li belli. E infatti, ma è così che è meta, ma è la pressione ancora ti assente, grazie. Se a piace avere la pressione. Ehi, è Giovanni, se a piace avere, oggi mi avvia l'accia. Oh, io bobo, non ne comprendo nulla, ma di tu mi ho misurato la glicemia. Cioè, vabbè, ma tu... Giovanni, a 290. Noi c'hai il calmo, Graziano. Caccia, cos'è che hai mangiato oggi? Sempre agitato, Giomari. Poi oggi, ve la gatti, la festa, era tutto sudata, ma dito, vieni qua, asciuga, a me, asciuga di tutto, se ti asciutto io a te. Perché è stato Graziano che punti si arrivede, Graziano, ma ti resta a piombo, fai un vestito brava, vacca. Ah, insomma, oggi ancora che fai una buona, tu dai. Ma Rosi non l'ha compreso, e non l'ha fatto, ma farla vizzirà, e invece da non l'ha compreso. Graziano, dimmi la verità. Graziano, è così, pensatevi sì. No, mi ha mangiato la crostata, la marmellata. E te? E la glicemia di 180. Marì, devo farti una domanda. Mi hanno detto che tu c'hai una Mantova 1, ma in vendita è? No. La verità che di chi era quella Mantova 1? Di principessa, la Mantova 1 che mi ha cavato franco da casa di principessa, un mese per la mia. C'è la cannò che mi serve quella lì, mi serve c'è quella di campagna, sto malandata, per cui a voi si fa l'uscita di Mario, si decide di fare la mira, vediamo un po', però una me la tengo sempre di scorta, capito? No? Già. Ammettate di me, si fa l'uscita di Mario, ammettate di me che mi si viene radiato. Già, ma no, la tolgo, no, brava, no. Ma infatti, è pure Graziano era ben senza far radiare, capito? Non lo so, adesso bisogna vedere un po' quando mi fa l'uscita di Mario. Se si decide, ma chi ha ragione o ve la posso? Dice che Graziano mi ha fermato, un figlio ma ci dice... E dice, appena fa bel tempo, dice, la giornata, saliamo, la portiamo giù. Oh, è nulla che s'intende. Però l'importante è andare a parare e attaccare a terra come se sui trauci, capito? Allora bisogna s'intende. È roba nuova, capito? Dopo si verrà, poi darci pure che radiali. Ma no, lo so già, non ti do parola sicura perché l'ho promesso quasi a Graziano, così è Graziano. Ma vabbè, se così non mi metto in mezzo, non c'è problema. No, perché ho cercato i radiali oggi con i pieni, li ho cercati per mare e per monti, ce n'erano quattro e basta, il quinto mancava, a Napoli, se no l'avrei fatto già lavoro. Ma li devono portare, non ci ha detto. Cosa, grazie? Ah già, quanto devono arrivare, ma mi sa che non ne aveva molta voglia la signorina a cui ho chiesto di lavorare, perché ce l'avrebbe anche controllato se c'era. Invece ha detto, no, non ne abbiamo, devono arrivare. Ce n'erano quattro solo, a me me ne servono cinque. Ah, che tu devi andare in magazzino, beh, un amico mio, chiedevi in magazzino e te lo diceva quel ragazzo che c'è sempre col muletto, dove vendono il pellet, quel ragazzo che usa il muletto, lo conosco io, è il ragazzo di una parente di mia moglie. Lunedì io vado, prima da in legno, se ci sono tutti e cinque li prendo tutti e cinque, se no le prendo uno lì e gli altri li prendo, ho fatto male a non comprare quei quattro, almeno c'avevo le spalle sicure, non mancava uno e buco. Li devi pigliare, magari al limite uno è al legno, ce l'avranno anche il legno, o non ne hanno, ci sei andato. Buonasera. L'altro giorno ce li avevo. Registrato il brico. Avanti. Okay, ciao Giovanni. A Graziano non lo saluto perché l'ho salutato già la stasera presto, è già dello stesso. Oh già, perché non provi da Panini, oppure da Carboni, oppure in quell'altro negozio, sempre un supernunzio, che c'è lì, dopo il passaggio al Veso, scendo la carica, come si chiama, Sardegna, Bocco, non mi ricordo, c'è anche lì c'è un bricome, non mi ricordo come si chiama quel negozio, vengono queste cose anche lì, proviamo, tanto quelli bucati, quelli vuoti li ho dati a Leoncino, ne ho comprato due vuoti, poi me ne è arrivato quello dell'ultimo piano col sensore radiale che ne fa razzo, allora ho detto basta, vuoti non ne metto più. Sì, ho capito, beh, certamente quelli pieni sono più, molto più resistenti e questo è scontato, però va anche nello stessamente li vendono queste cose lì, non è che li vendono solo a Blicco, meno puoi andare lì da Carboni, puoi da Palmieri, puoi andare questi negozi, o ferramenta sarda, come si chiama, sarda ferramenta, una cosa del genere, quel negozio, anche quello è un brico, o lì scendendo a Canina. Sì, tirano lì via il portatore, c'è a Bricquenno, cos'è a Bricquiero, ce l'hanno anche lì, tutti ce l'hanno, anche quello che stai dicendo tu, giuro, li ho visti anche lì, e li ho visti anche quello di via il portatore, sì. E l'ho visto anche a Cittamercato la Bricco pure, capito? E in qualche posto li trovi già, ci sono in vendita, ci sono, come? Ci sono i pieni e ci sono i vuoti, capito? Bisogna girare. Beh, infatti c'è anche il Bricco di Cittamercato, anche lì ci sono, le vendono queste cose qua. Ma lì da cosa è già andato, mi ha detto che è già andato, la Bricco io e ne servono quattro. 5 lui ne ha trovato solo 4, è per quello che non li ha presi, se non li abbico io, c'è già stato, io Maria. Ecco, io devo chiudere Porta Maggiore, saluto a tutti quanti, circolari, là. Ciao. Ciao, ciao, grazie, saluto a Pirrusi, dai, buona serata. Grazie, sentiamo i prossimi, ciao, ciao. Io Maria. Ciao Graziano, mi raccomando, abbassa la temperatura stasera, che meglio, ciao. C'è Leoncino, mi sembra che si ha chiamato pure già. E avanti Leoncino. Brecco dalla città di Porto Torres. Per due passi, secondo scala. Avanti città di Porto Torres, buonasera. Buonasera. Ciao Gianni, Gio Maria e Giulio. Ciao Alessandro. Salutoni, ben ascoltato. A Giuseppe non lo sento comunque, se c'è Giuseppe. Giuseppe Leoncino, non so se mi ascolti, ma io non ti sento. E io lo sento, ma basso però, è basso. Ciao, ciao. Buonasera, ben risentito dopo un secolo. Come va? Cappa, ciao Gio Maria, buonasera. Ehi, come va? Tiriamo, andiamo avanti, piano piano. l'MLM si cerca di tirare avanti, tutto lì. Oh Sandro, c'è qualcuno che ti chiama in sottofondo, avanti chi chiama Sandro. Ah, lo senti? Ah, io non sento nessuno già. Ah, chi è che chiama Sandro, avanti? Riprendete, dai, non sta più entrando. Riprendete. E un attimo, dai, riprendo io che le ho passate, per cui ne approfitto. Ci sentiamo. Grazie alla chiacchieratina, buon proseguimento in serata. Ciao Giulio, Sandro e ciao Gianni. E buonasera a chi ha Leoncino. Non sento altro nessuno. Buona serata e sei qui ci da domani. Riprendi già. Ciao Giovanni, buon corretti, dai, buona serata. Ci sentiamo, avanti Sandro. Oh, scusate. Avanti, Luca. Buonasera, scusate l'intrusione. Qualcuno di voi c'ha qualche baracchino a pochi soldi, tipo una cinquantina di euro da prendere? Possibilmente che funzioni. Ma com'è piccolo? Allora io chiamo a telefono adesso questo mio amico, se funziona bene però, Funziona bene. Beh, accorto, io chiamo a telefono adesso, ti do il tuo numero. Aspetta, controllo se ce l'ho. Cacchio, aspetta, controllo, se no ti do il numero, mi fa uno squillo. Ti do il tuo numero, ti faccio chiamare, mi date appuntamento e te lo fai vedere. Non c'ho il tuo numero, Giuseppe. Siccome non mi memorizza i numeri nella scheda, capito? Giuseppe. Ah, CB, riesci a vedere? 272 finale. Guarda, c'è uno scaldabagno se ti serve, senti il microfono. No, non è questa, sei a dirmi io quando lo squillo, io. Ciao Luca. Per 50 euro propongo senza microfono 4,40, funzionante. No, è per un capro questo baracchino. Giuseppe, c'è il mio numero, 347-54-54-201, ripeto, 347-54-54-201. Devo scappare perché vado a mangiare la pizza, sto uscendo, dai, ci sentiamo dopo semmai. Ciao Luca. Chi Stefano è? Ciao Mascellia, chi Stefano è? Come ti irrita? Ah, ho capito. Vabbè. No, io ce li ho, ma sono... Ne ho uno, me lo tengo per la macchina, gli altri, uno per volare a Giulio e gli altri me li tengo. Va bene, ciao a tutti, buonasera. Vado a cenare. Buonasera. Lei ha segnato il numero, il mio numero. Massimiliano che sta chiamando, Massimiliano, ti sono tutto black and game. Allora, scusate, Giuseppe, passa a 15, per cortesia, canale 15. Massimiliano, ti stanno calpestando. Sì, capo, già. Probabilmente era Massimiliano poc'anzi che stava chiamando. Senz'altro in macchina, quindi da parte mia non lo tiro fuori. Vediamo un po', Claudio, chiedi un attimino dove è Massimiliano. Dove sei Massimiliano? Rotatoria di Fertilia, direzione a Tottobella, 5-9 più 10 qua Massimiliano, ma gli altri credo che non ti sentono. Chi è che sente Massimiliano? Io lo sento. Ciao Massimiliano, ben sentito e cordialità. Tu non andati al Ghero? Se non ci andavi hai detto al Ghero stamattina. Invece poi ci sei andato. Ho capito. Sandro, va avanti per Massimiliano. Ehi, capo, dai, vabbè. Da parte mia è negativa, dai. Evidentemente è una zona negativa da parte mia. Vabbè, se mi ascolti, Massimiliano, buonasera. Ben ascoltato non te lo posso dire. Magari se sei in movimento... Vediamo un po' un attimino se riesco a pizzicarti, dai. Sentito, Massimiliano. Non ti accoppi ancora, lascerò avvicinare che è mezzo agli alberi nel viale di Fertilia. Avanti, Gianni. Bravo. Pensavo di non arrivarci io perché senza radiale tutto busumare. sessantenne, per carità. Non la posso vedere, così mi pare una boomerang. Scusa, non riesci a tirarmi fuori nel viale di Fertiglia? Ma cosa c'è andato, antenna? Hai capito? Io non ti ho perso un minuto, dai. il QRM, quindi me lo copre. Riprendi, Cla. Ha detto che non ti ha perso, che non ti ha perso, ti sentiva quando ci è entrato, era dentro l'albero, stava uscendo l'albero, ti sentiva. Poi ha iniziato a perderti, poi ti ha sentito di nuovo, ma ti sentiva sempre, quindi non è un problema lì. Evidentemente è proprio le zone d'ombra che ci sono nell'arco della strada, capite? Avanti, doppio rumore, prendi. Guarda se c'è qualcun altro. Hola. Hola, attenzione, binario 10. Aspetta, Gesù. Adesso laterale. È entrato e non... Adesso che la stanza è stata appena rotta, attendendo dagli occhi. 9, 9, 10, 9, 9, 10, ma sempre, però, vabbè, lascia perdere a me, eh. Se ti sente bene Gianni non è un problema l'antenna, è proprio questione di zona d'ombra che magari durante il tragitto copre la zona dove Sandro, tutto lì. Avanti Giuseppe. Ehi, buonasera a tutti quanti sul binario 10, Buonasera a lei dal binario 10. Avanti Gianni. Ciao, Leoncino, dove te la trovi? Dove? Perché la segnale non te la accorgi dove sono, no? Sì, puoi essere sotto casa come puoi essere sotto casa tua. O sono a casa. Sta una casa lì, si ritinti. Cappa, Claudio mi sta spaccando lo smitter qua, mi sta arrivando 9 più 30. Ascolti, buonasera. Millo, eccolo qua. Ciao Giuseppe, buonasera. Eccolo qua Massimiliano, avanti Massimiliano. Ciao, ti dicevo che allora da Fertiglia, io da Fertiglia la cercavo, non ti ho perso un minuto. Poi è strano che tu non mi ricevi, e da Mario sono 25 watt, no? Massimiliano, non so cosa dirti. Ripeto, tutte quelle zone lì, arrivare fino alle bombarde, lì diciamo che lì arrivo perché ho fatto alcune prove e da lì lo stesso mi sentono qui a Porto Torres, poi logicamente come sai benissimo scendendo, rientrando, se fai Santa Maria della Palma, Fertiglia e così via, essendo tutto pieno d'alberi lì logicamente ci sono i punti, molti punti negativi. Beh, comunque, non è un problema, dai. Prego. Ti sento rumorosa, vuoi sentire un vate però? Un vate, no? Mi sento. Le solite condizioni che tu sai, Massimiliano. Ma considera che non uso un quarto d'onda, uso sempre il classico antennino, Ecco. Ok. Avanti. Ma sicuramente c'è qualche varco di copertura durante il tragitto, ti ho detto. Se no è possibile, perché io Sandro quando vado al ghiero, vabbè, lascia perdere a me per la zona, io lo sento dentro al ghiero, lo sento a tutte le parti. Quindi sicuramente è questione proprio di zona. Ok, Giuseppe, 920 sì, qua, abbondante. L'antenna apposta hai messo. Break. Sì, ha registrato il break. Perché non la vedi, non la senti Claudia che l'antenna è a posto? E già la vedo più che la sento. Per sentirla me la devo mettere in culo l'antenna. maledetto, usciabucu. Cazzo, Giuseppe, non fare domande strane così a Spalviero, ma sai cosa arrivo a metterla nel di dietro quell'antenna lì? Lo so, purtroppo, vabbè, Claudio, già, ogni tanto, vabbè, dai, se non scherziamo così, tanto non siamo contenti noi. Fai passare il break, fai, se tuo marito la senti, no, a sentirla bisogna ammetterla, ma io la vedo dallo smitter, se no più 25. Si arriva in diante Gianni, non chi. Avanti Break, chi era? C'era un sacco di QRM però ragazzi, a me mi sono attendo che ti così, avanti Becchi. Buonasera a tutti, da questa parte Antonio Bombolo. Tanto buonasera anche a te, ben ascoltato. Non è così già, tu cosa fai? Lo vedi o lo senti il segnale di Leoncino? Sento la sua voce, calda. Tiago di Guiuca. Tiago di Vava. Tiago di Vava, avanti Sandro, la tire. Ehi, va bene, va bene, va bene. Hai nominato Antonio, ma non so chi Antonio sia, comunque da parte mia non lo sento. Se lui sente a me, buonasera. Va bene, capito Giuseppe, non farne proposte del genere, cazzo, ai tempi d'oggi casa è grigia, Tempi duri per i vampiri, sa, tempi duri per i vampiri, lo so, bisogna succhiare molto sangue. Giuseppe. Chi è? Avanti Massimiliano. E sono Carlo che fa la cogliuta, fa la fara, via. Cos'è Massimiliano? Non ho capito. Sta attento a Claudio che fa la cugliuta con la fara, quello che ha cugli fa, vai. Oh, Massimiliano, ma guarda che non c'è problema, mi. Due palline grandi vuote le recuperiamo. Probabile, non sbaglio, mi sembra che ad Alghero Pattelli non ne usano, non ne raccolgono. Però non lo so, non insisto, però non lo so. Alghero la usano rasata, capito? Così è meglio. Avanti, Antu. Chiappa. La usano rasata, sì. Beh, mi senti in quella zona? Non è possibile, Claudio, correggilo Massimiliano, che c'è un buco, c'è un buco, rasata gli piace rasata, a me gli piace un buco rasato, anche col vero, non me ne sta niente, scusa, ma tuo marito è una cosa allucinante. Vabbè, per tua socia non c'è problema, cosa? No, non è un problema per tua socia, non mi scandalizzo. Vabbè, tanto lì c'è sia obbligativo che coreano, Non ho parole, delle volte mi domando con quali elementi devo aver che fare, Sandro, ma perché ti scandalizzi? Non siamo proprio dentro di mezzo, no? No, per carità. No, è Massimiliano, capo, una persona adulta di un certo livello. Massimiliano, caso ti avevo dato 10, adesso stai calando, Radio Mezzosa che fa obbligatino. È un di voce. Fatte, io ascolto, metto le cuffie perché non si può ascoltare con le orecchie. Cazzo, ma che vado a fare un rosario già, cazzo, rosario, a San Paolo c'è un silenzio, adesso metto le cuffie, è un roba di mondo, capito? Ah, non è possibile. Gianni, ma tu dimmi una curiosità, mai conosciuto Massimiliano così in verticale dal vivo? Certo che lo conosco. Ma adesso sei da molto senza rivederlo? No, non da tantissimo, vero Massimiliano, non da tanto. Ehi, positivo, va. Dai, vi lascio ai vostri discorsi, Art. Io sono arrivato qua nel mio QTH. Mi sento dopo, buona continuazione, buona serata a tutti, buon divertimento. Avanti, Santo. Ehi, va bene, dai, ok, Massimiliano. Ogni tanto bisogna stramatizzare, dai, rendere calda la frequenza. Ciao Massimiliano, buona carica, buon proseguo, buon tutto. Salutoni anche a tutto l'equipaggio, dai. Avanti, Cla. Ciao Massimiliano, ci sentiamo alle prossime, dai. Ehi, vabbè, per dire due stronzate non è un problema. Ci ho buttato la via in radio, comportandomi bene. Quando passo qua bisogna ogni tanto dare qualche colpo di grazia, se no non va bene. Ciao Massimiliano, alle prossime. Giuseppe. Dimmi, Claudio. Cosa ti vuol dire? Dici tu, tutto a posto, questa antenna piazzata, tutto ok? Cappa, tutto a posto, tutto ok. Solo è una cosa, Claudio. Mi ho perso un vento, deve essere, me l'ha buttato giù. Un radiale, capito? Se la collezione del caffone che c'è il radiale. Allora, è una giubbotta in fibra nera, nuovo dentro la busta. Nera, diciamo, però l'attacco è diverso. E poi una 3-4 in alluminio. Io ho recuperato con una antenna. Cazzo, tutti i radiali siete brillanti. Madre di Dio, sempre stato. Chissà che non vi avete rifatti voi che mi ha fatto prendere i radiali. Io me la sto tenendo, sono sempre le cornacchie buttate su, che bisogno che ci metta il filo spinato sui radiali. Guarda, io da davanti non ho problemi, temo più la direttiva e le altre antenne che ho, capito? Ma questa cosa ho fatto io. Nell'affilare che è lunga 30 metri, appesa al tubo c'è una papera di plastica, era gialla, io l'ho verniciata in nero, e sembra una cornacchia morta appesa. Non si sono più avvicinate alle antenne. Tu ci credi che non sono più avvicinate alle antenne? Capo, ma questo sistema l'avevo sentito da, adesso non mi ricordo che cosa, che prendevano, diciamo, una cornacchia morta, la appendevano lì da qualche parte. Adesso non mi ricordo se era qualcuno che avesse un frutteto o qualcuno che avesse una vigna, e usavano questo sistema per non farli avvicinare. E come fanno le vigne di spaventa passere, oh? Capito? Fanno un uomo di gozzo, la piccani. Io mi hanno detto un vecchio radioamatore, ma per me mi mangiava le carri e le cornacchie. Ho preso un peluche, insomma, che si assomiglia a un uccello, e lo avevo questa papperetta di plastica gialla, l'ho verniciata in nero, capito? L'ho verniciata in nero, la giubilata per amore, era un buco, l'ha già piccata, era un dubbio del dipolo, e vedo che non ci stanno più avvicinando, perché di solito la mattina le vedevo tutte sopra le antenne, sopra le murette, non si stanno più avvicinando. Adesso ho capito, se è quella, ogni tanto ti ricudo un sciringato, un amplificatore, la direttiva, perché si appoggiano sopra la direttiva, capito? E quando io mi metto a trasmettere, dove si arrivi qualche basinata di watt, e allora spariscono, e quindi hanno paura di riappoggiarsi. Può essere o quello, perché c'è la papera appiccata per amore di Rugudo o Dubu. No, ma senz'altro è... Senz'altro il discorso della papera, dai, della papera, vedono questo facchio simile, e quindi per loro sembra chissà che cosa. Va bene, va bene. Gianni, ci sei ancora? Io ci sono, ma non penso che siano le cornacchie qua, penso che sia proprio il vento che qua picchia forte, forte. Quando c'è maestrale e quel vento caldo, come si chiama, lo scirocco, quei venti lì picchiano forte, e probabilmente hanno trovato anche radiali troppo deboli, la verità è quella, che si sono spezzati tutti, dove c'è il buco dove passava il bullone passante, si sono tagliati in due lì. Vabbè, adesso li metteremo qui, se no si cambia l'antenna, lo già mi da fuori. Sì, si è visciato dunque che radiare. Vabbè, tu lascia fare una giornata di tempo bello, e poi si va al bicco, si compra il radiale e ti piazza io per essere ingaggine, no? Facciamo la scommessa, se nel caso di nuovo i radiali, te la compro nuova io, bene va? Il discorso lì o già sarà perché tu hai preso quel tubo in alluminio, diciamo, all'interno vuoto, e facendole, diciamo, il buco per bypassare e così via, logicamente vai a indebolire dove li fai il buco, e logicamente sarà per quello. Ma smettendolo pieno poi non si indebolisce così. Lo metto pieno e poi ne metto anche la lenza adesso. Così almeno la prossima volta quando lo faccio come si deve, non che non era fatto come si deve, solo che il materiale forse era troppo fino, quindi non ha resistito. Beh, che io vado a mangiare, già ti ho detto che la mantola, la turbo, io li avevo messi tutte 8 nuove, comprati al brico, innestati a forza, e messo il bullone da 1,5, proprio quei bulloncini fini, 1,5 da cera sciabile, è durato per 5 anni, quindi più vento di tirare qua, ma insomma un pezzo. Tu immaginati che l'imbecio di avanti ieri, con l'antenna a nord, col fine corso bloccato, l'ho trovata a nord-ovest, e fatti un conto, ma non dal motore, perché il motore era bloccato, proprio il tubo ha fatto girare completamente l'antenna dentro la staffa del tubo, dentro il master, figurati. A nebbia vento, l'antenna è 6 metri di boom, non è piccolina, quindi. Va bene ragazzi, un abbraccio a tutti, grazie per il chiacchiere. ci sentiamo alle prossime, vado a pappare. Ciao Gianni, Giuseppe, Antonio, Bombolo, Sandro, Massimiliano se ancora in ascolto, tutti quanti. Tutti, vi saluto tutti, avanti Antonio Bombolo, riprendo e fai girare. Ciao Claudio, ci risentiamo alle prossimine. Veloci, avanti. Ciao Claudio. Buona carica, buon tutto, dai, saluto nel cuore A e ce la risentiamo alle prossime, dai. Avanti, Sandrino. Ehi, ok, dai. Ciao Claudio, buona carica, buon tutto, alle prossime, anche io ne approfitto. Saluto tutti circolarmente e ce la risentiamo tutto alle prossime. Avanti, già. Ciao Claudio, ciao Sandro, ne approfitto anch'io, vado a mangiare anch'io, dai, sono tutti cordialmente e vi auguro quando lo farete la buona carica, dai, ciao ciao a tutti. Va bene, riprendo io, dai. E beh, bomboli. Perfetto, sto a posto. Cappa, a me domani è l'ultimo giorno di là, in quel posto che sei, l'hai detto, spiegato, no? Da domani mattina, dalle 10. Alle 3 e poi dalle 7 fino alla chiusura. Ciao, va bravo il friend, sì. Noi lasciamo, ieri abbiamo lavorecchiato un po', ma non più del tanto, pulla a fronte. Stavo dicendo, quando mi senti a casa tua con questo apparecchio? 9.30 sei qua. E ciao. Prova a indovinare che apparecchio è. Il piccolino, la paillette. No, assolutamente. Qual è? Uno un bel grande. E quale? Il Galaxy Saturn Nerto, 5 stelle. Ah, K. Conosci? Ehi, lo conosco. K. Questo è buono, va bene. Eh beh, buono sì. Oh, buono. E quanto ti è venuto, tu? Regalo. Ah, cappa, va bene. Va. Beh, com'è stato, padre? Come, Giuseppe? Un attimino che mi sta parlando mia nonna. 2 secondi, forse non gli accenderà, vuole accendere la cucina. E vengo subito. Cappa, vai, non ci sono problemi. Eccomi. Ho detto, stavo dicendo... Aspetta, ho detto, come sta tuo padre? Ah, tu. Già sta bene, è entrato ieri sera. Ah? Ma là non sta più venendo, no, vero? No, bella. Già mai capito dove è il posto di trabacco. Sì che sta venendo, io te l'ho detto l'altro giorno che... Non siamo più lì. Vabbè, siete su dove c'è la croce blu. Sì, lì siamo. Pensavo che ci fosse cosa? Il tuo principale. Dai, il tuo principale. No, oh, se passi su già lo vedi che lì, se ti so lì. Ah, cappa, no, perché ti vedevo spesso con il tuo principale. Ah sì, è sempre con lui. Poi sono un ragazzo. Lui adesso sta più su, dai, capito? Non sta uscendo questo periodo. Ah, cappa. Vabbè, non c'è problema. Sì. Vabbè, scusi. Se domani si riprende, è vero tu? Si riprende, sì. Sì, vabbè. Ce ne può se il lavoro. Speriamo. Ce ne possiamo sì. Oi. Cazzo, ma lo poco che fa, fate le pure carogne. È vero. Cosa vuoi fare tu? Come dice il proverbio, meglio quello è nuda. Poco a poco, però sempre a niente. E sempre vai avanti, capito? Scappa. Ma quando non ti pagano è meglio nulla allora. Giustamente. Quando non ti pagano vai nelle lobby tagliato il saltoro, di lì pane e pane, vide il vino. Grande bigliassi, eh? Preferisco rimanere nel casa, però non mi devo attaccare con nessuno, come animali, che c'è stata una mezza rissa. Ma farà? Sì. Mi gioco un cattaparrato, non è che si è parlato, mi gioco a parrato. Si è parrato? E poi cosa? E tutti i pighe di grassi, gli ho tirato solo un piccolo schiaffo e basta. Dopo sono arrivati i pugni, già, mi domando tutti. Io te lo spiego quando ci vediamo in persona, tu. Per radio no, non mi piace raccontare dei miei studi, hai capito? Sto mangiando, sto studiando che cosa, cazzo. Ma è fatta grossa, ma grossa però, tu. Cazzo che se tu lo sai, no, quando ti vedi che sta facendo il tuo lavoro, cazzo, ti pigliano il ballo culo, e cosa fai? Non ti giri. Va bene. Il discorso è questo, che io stavo andando a buttare la moldetta, c'erano così due, cazzo, e stavo pulendo a mettersi a ridere. E mi sono girato, ho detto, va bene, molto da ridere, c'hai. Gioco un cazzo lo pagliaccio do io, ho attaccato il gioco. Allora, ma ci conosciamo? No, non ho avuto mai problemi a conoscerti, e dunque non ti ho dato mai confidenza. Allora, ma che problemi c'hai? Spiegami. Gente imbecille, ma da cui l'ampulla a fronte? No, non ho bisogno di usare le ampulle, io uso le mani a tutto, lo sai? Le mani vanno nei ciupali delle pulli. Vabbè, c'è giù il filiato, ma quando mi gira le palle mi piace a posto, mi ricordo la pittorra. Ma è bastato solo tirare uno schiaffo, basta, perché ma me ne ha tirato il mio principale, se no te lo lasciamo un cazzo morto in terra. Vabbè, tanto dai, ti saluto, dai, che vado a cenare, ci sentiamo domani, se coincide, dai, alle prossime, dai. Ehi, non c'è problema, ce la risentiamo.